marudu ro sure aka dongan sahutada ditopi pari dihutai nadi karuni bului na kirim do sude ha anggi botomi anggi atsa ho hasia tuti nodoni ro itu makirim do sude amang digogomi ai dong tari dama dagoan mi amang satu jumni portibio ai gabe mani bunga.